alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Claudio Bigagli legge Il deserto della Libia, di Mario Tobino. Introduzione di Eric Salerno. Era stato tanti anni fa un viaggio nel deserto, un attraversamento del Sahara, quello algerino, che accanto ovviamente a quello libico, ad avvicinarmi al libro di Mario Tobino, Il deserto della Libia. Il deserto, tutto sommato, è l'essenza del suo libro, è la cosa più importante. Gli uomini sono uomini in funzione anche del deserto, quello che loro vedono e sentono è legato molto al deserto. Lui dice una cosa molto importante: il sole era presente in tutte le cose, e poi parla di immobile terra senza lacrime, limpida fuliggine. Il deserto, scrive, sembrava un bianco osso al sole che da secoli non conosce sangue. Purtroppo non è vero. Non era vero allora, quando lui attraversava quel deserto libico, e non è vero oggi, e non era vero prima ancora, perché il Sahara libico, vissuto dallo scrittore italiano, allora molto giovane, era lo stesso Sahara in cui molti italiani, prima di lui, come lui, avevano combattuto, ucciso, devastato. I reparti delle armate alleate dei nazisti, arrivati a combattere una guerra non loro, in cui non erano convinti, stavano calpestando terreni ben noti ai soldati italiani. La prima invasione italiana della Libia, infatti, era del 1919, e nel deserto e nelle sue oasi gli italiani uccisero, devastarono, colonizzarono. Era il loro compito, era stata un'impresa prima cominciata appunto nel 19, portata avanti per qualche anno, tutto sommato un fallimento all'inizio, con massacri reciproci, molti morti, molto sangue nel deserto, e poi alla fine degli anni 20 ci riprovarono gli italiani con Mussolini, con un impegno ben più feroce, con più militari e un progetto di colonizzazione molto più articolato. Quello che accadde in quegli anni, ovviamente Tobino non lo poteva sapere se non attraverso poche cose scritte nei libri pubblicati in Italia sotto il regime fascista. Non era una cosa di cui si vantava l'Italia, quello di aver ucciso in Libia. Si erano messi in testa gli italiani di far capire al mondo e a loro stessi, tutto sommato, che gli italiani erano brava gente, che andavano fuori in queste imprese coloniali, tutto sommato per aiutare i popoli locali, per civilizzarli, per renderli più liberi. Non era così, non era così allora, e questo ricordo, che è stato cancellato dalla memoria storica italiana per molti anni, è cominciato a riaffiorire dopo la guerra, quando qualcuno ha avuto il coraggio di raccontare le vicende di quegli anni. Tobino a un certo punto parla di Agedabia e dell'arrivo dei soldati australiani, quelli che erano venuti insieme con le forze britanniche per cacciare italiani e nazisti tedeschi dal Nord Africa. Però non si ricorda che in quelle distese di sabbia, le stesse distese dove lui ha combattuto e dove gli altri italiani stavano combattendo, gli italiani avevano costruito alla fine degli anni 20, primi anni 30, dei campi di concentramento dove su migliaia, centinaia di migliaia di libici internati, donne, bambini, uomini, combattenti e non combattenti, almeno 100.000 non tornarono mai a casa. Era un deserto quello che lui ricorda, che lui scrive, che lui descrive, molto affascinante. Era il deserto e il mondo delle belle e misteriose donne arabe e berbere, velate si intende, dove si vedevano soltanto gli occhi, e gli occhi ovviamente erano pieni di mistero. Tutti i cliché coloniali, direi che Tobino racconta queste cose, ma queste cose le leggiamo in tutti i romanzi coloniali, le vediamo anche nelle fotografie scattate dai fotografi italiani, francesi, belgi, inglesi nelle loro avventure coloniali. Purtroppo il fascino di quello sconosciuto, di quel mondo sconosciuto, era un fascino che impediva alla gente di pensare, di riflettere, forse la gente non voleva riflettere. L'anno scorso il Presidente del Consiglio italiano ha chiesto scusa ai libici per quello che gli italiani hanno fatto in quegli anni, però non è sufficiente, perché non si insegna, non si racconta nelle scuole quelle vicende e quei massacri. Quello che è importante però da dire è che oggi gli italiani stanno tornando in Libia anche come turisti, e forse visitando quei luoghi affascinanti del deserto, andando nel paese, forse impareranno a capire che i libici hanno un rapporto tutto sommato di amore e odio con l'Italia, odio per il passato e amore per molti elementi mediterranei, diciamo, che ci legano e che ci accomunano. Quando una persona in Italia durante il fascismo riceveva la cartolina precetto che lo mandava in guerra, si presentavano diversi quesiti. E primo, per chi doveva fare la guerra, rispondeva che la doveva fare per i fascisti, per un gruppo di persone che erano l'opposto della bontà, o perlomeno dell'intelligenza, e conducevano alla rovina l'Italia. Secondo, se anche lui era un collaboratore di questa tendenza, egli rispondeva di sì, perché non aveva fatto nulla per opporsi ai fascisti. Davanti alle loro azioni era stato in dignitoso riserbo, aveva contro di loro mormorato genericamente, parlato con franchezza solo tra amici fidati, mai aveva fatto contro i fascisti azione chiara, mettendo in pericolo la vita. Terzo, se era meglio andare alla guerra e combattere a favore dei fascisti, oppure non andarci e rimanere nel dignitoso riserbo. Si rispondeva che era meglio non andarci, che così almeno non favoriva la vittoria dei fascisti. Quarto, quale mezzo si poteva usare per non andare alla guerra, pur avendo ricevuto la cartolina precetto, che obbliga alla guerra? Si rispondeva che fare il disertore non era possibile a causa della efficace polizia, e ben pochi giorni sarebbe rimasto disertore e rimanente in carcere, o più facilmente nelle compagnie militari di disciplina. Allora, essendo proibito disertare, si doveva eludere il servizio militare attraverso le visite mediche, e cioè simulare malattie e riuscire, simulando, insieme cosa più importante del simulare, facendosi raccomandare, a farsi dare ripetute licenze di convalescenza o anche la definitiva riforma. Qui nasceva la quinta domanda. E allora, quinto, poiché per simulare malattie era necessario essere raccomandati, chi poteva raccomandare? I potenti in Italia erano i fascisti. Erano loro che avevano la capacità di raccomandare. Ma per farsi raccomandare bisognava umiliarsi ai fascisti, genuflettersi, adularli e poi, ottenuto, ringraziare ed essere loro grati. Una persona non poteva fare questo. Se uno era raccomandato, voleva dire che era protetto direttamente o indirettamente dai fascisti, creatura fascista, anch'egli partecipante alla tirannia. Non era possibile farsi raccomandare. Rimaneva il sesto quesito. Sesto, la pura simulazione. Se la persona era sana, non è facile costruire una malattia in modo tale da ingannare i medici. E i medici debbono essere completamente ingannati, perché in questo caso non c'è la raccomandazione. Se la persona ha qualche difetto fisico, lo può accentuare, oppure, non avendo la malattia capace della riforma, la può far nascere fin dall'inizio. Ma un uomo può così percuotersi che da sano diventi febbricitante, da allegro dolorante per un male che egli stesso si è procurato? Alcuni questo hanno fatto, non si sa se applaudirli o tenerli lontano. Rimane un altro quesito, il settimo. Settimo, il popolano, la persona umile, ha le raccomandazioni? Può sfuggire alla guerra per mezzo di queste? No. Costoro possono soltanto procurarsi malattie e gravi malattie per sfuggire, ma preferiscono andare soldati, continuare il destino. Allora, se loro vanno in silenzio alla guerra, a scontare il peccato di colui che non si è ribellato al tiranno, perché la persona non deve scontare? Abbiamo sopportato insieme la pace fascista. Sopportiamo insieme la guerra. Altrimenti, quando verrà la libertà, il popolano dirà: al tempo che la tirannia mi avvolse di nebbie, tu non mi aiutasti a tenerle lontane. Quando venne la guerra, mi lasciasti morire. Così si interrogò la persona quando ricevette la cartolina precetto che lo costringeva alla guerra. Ogni persona agì secondo la sua natura. C'era un misto di viaggio di piacere e di condanna. Alcuni transatlantici avevano avuto come destinazione Derna, altri Bengasi, altri Tripoli. Quelli della 31ª sezione di sanità montarono sul Duilio e arrivarono a Tripoli, dove venne loro consegnato il materiale sanitario, e quindi su alcuni camion, mentre si diffondeva per il Ghibli un'ombra gialla, vennero trasferiti nell'oasi di Sorman, distante circa 80 chilometri. Il comandante della sezione era il maggiore Beluschi, oculista. Era un uomo obbediente al proprio dovere, con le mani delicate. La cosa in lui più viva era l'amore per la moglie, che era giovane e bella. In anni precedenti, per essere appunto ammirato dalla consorte, da capitano medico di complemento, frequentando un corso, si era fatto promuovere maggiore. Venne la guerra e il maggiore oculista si trovò all'improvviso volontario e uno dei primi a essere richiamato. Infatti, qualche anno prima, in una delle solite adunate, avevano chiesto chi, in caso di guerra, sarebbe stato pronto a combattere. Tutti avevano firmato, non credendo che venisse la guerra. All'improvviso, con la guerra, quella firma domenicale tornò fuori e l'oculista Beluschi si trovò nell'oasi di Sorman. L'idea del casco coloniale, del cammello, del deserto, del soldato che torna vincitore, gli resero un po' più dolce la partenza. E credeva fermamente che quella gita in Libia fosse pressoché una adunata, soltanto un po' più lunga, un affare di 10 giorni. Il maggiore Beluschi, comandante della 31ª sezione di sanità, la prima notte che passò nell'oasi di Sorman, dormì sulla sabbia, a cielo scoperto, per dare l'esempio, e segretamente perché credeva che quello sarebbe stato uno dei pochi sacrifici. Invece il dottor Marcello e il tenente Nitti, dietro l'indicazione di un soldato pratico dei colli di sanità per aver fatto la bissigna in un ospedaletto, tirarono silenziosamente fuori 2 materassi nuovi e soffici e sopra vi dormirono. La sezione era arrivata di notte nell'oasi. Tutti alla prima luce si svegliarono e videro dov'erano. Da un lato un mucchio di gonfi bauli di fibra, che era il materiale sanitario, poi delle palme altissime che tentennavano il capo nel cielo. In distanza una casa araba così diversa da una casa italiana, più in là un campo di gran turco a metà cresciuto, al posto della terra sabbia, senza un filo d'erba. Mentre i soldati stavano anche loro guardando e alzandosi, venne un arabo, piccolo di statura e agile, assai scuro di pelle o sporco, le gambe e le braccia nude, ricoperto soltanto da una camicia che gli sfiorava il ginocchio, fermata intorno alla vita da un arrotolato tricciolo. In testa aveva una zucchetta bianca con delle righe celesti. L'arabo, che poi come si seppe si chiamava Bashir ben Mohammed, andò in fondo al vasto campo di sabbia dove c'era il pozzo, e vicino al pozzo una buca rettangolare che aveva un estremo a picco e l'altro degradante a piano inclinato, lunga diversi metri e profonda. Tirò su da quel fondo una minuscola vacca, le legò al collo una corda che arrivava alla carrucola del pozzo e di lì scendeva fino a un secchiello. Il piano inclinato partiva dalla parete del pozzo e scendeva gradatamente in fondo alla buca. La vaccarella aveva il beneficio di tirare su il secchio mentre trotterellava quella discesa. Ci mancava solo che belasse per farla sembrare una vecchina abbandonata da tutti. Il secchio, che ogni volta si riempiva d'acqua, era versato in una cisterna, che quando fu piena Bashir la stappò e l'acqua corse per il gran turco scorrendo in piccoli canaletti fatti con le mani, canaletti uguali a quelli dei bambini quando giocano sulla spiaggia. Intanto cominciò il caldo. Sembrò un manto che lentamente calava. C'erano anche sparsi per quello spazio dove cominciò a sorgere l'accampamento degli ulivi selvatici, sotto la verde pallida ombra dei quali i soldati alzarono le tende. Un grande nuovo silenzio dappertutto. A un lato c'era una strada fatta di sabbia, delineata sulle sponde da fichi d'India. Su questa passò un arabo sopra un minuscolo asinello, lo ricopriva tutto. L'arabo era avvolto dal barracano, che ha un lenzuolo di lana, e dava a quei calcagni nudi dei rapidi e continui colpi sui fianchi dell'asinello perché continuasse la corsa. L'arabo aggiungeva dei suoni gutturali. Il tenente Marcello, perché aveva fame, erano due giorni che non mangiava, i soldati erano tre, saputo che a poca distanza ci doveva essere una piazza con delle case, il centro dell'oasi, ci si avviò. Passò davanti a un tugurio dal quale partì un urlio di cani. Dopo circa 500 metri si trovò tra case bianche, quello era il centro, una piazza di allucinata miseria. A un lato c'erano due cammelli che biascicavano lassù nelle bocche. Erano cintati nel petto da delle corde per trascinare un cannone poggiato su un trespolo con alte ruote di legno. Il cannone era vecchio e polveroso. Alcuni soldati col casco coloniale erano vicini a quell'imbarcazione. Erano giovani alti, senza alcuna gaiezza. Il tenente entrò in uno stambugio dove c'era un siciliano che vendeva, ma non aveva niente. Poi gli dette un po' di pane e un bicchiere di vino marsalato. Nella piazza comparve un frate, di maniere composte, come non fosse in quel posto ma nella sua certosa. Parlava con l'accento piemontese. Il tenente ritornò verso l'accampamento, prese una strada diversa. Il sole era presente in tutte le cose. La strada era come tutte, di sabbia, e per delimitarla vi erano due linee di fichi d'India. Non c'era nessuno, non si sentiva nessun rumore, neppure il cigolio delle carrucole dei pozzi che tutta la mattina c'era stato, rimando da un pozzo all'altro. Il tenente si incrociò con un arabo, coperto con quel manto pecoroso che chiamano barracano. L'arabo camminava a capobasso, e continuò in quel modo anche quando fu vicino e passò via. Sembrava arrabbiato. A ogni passo alzava una nuvoletta di sabbia poiché strascicava le ciabatte, camminava in fretta, non strascicava i piedi per debolezza, camminava così per non perdere le ciabatte, che quelle arabe non sono allacciate ma solo infilate, senza legaccio dietro il calcagno. Il tenente si voltò. L'arabo non si voltò mai. La strada di sabbia era lunga e vuota, le due file di fichi d'India la facevano più solitaria. Era sembrato al tenente, mentre l'arabo passava vicino, che questo fosse come spinoso. Intanto, alla sezione gli ufficiali discutevano sulla mancanza d'acqua e dei viveri, che erano 3 giorni che erano in Libia e tutti li guardavano come estranei. Il capitano di amministrazione della 31esima, benché dispiacente di trovarsi in Libia, si mostrò pratico e affettuoso. Era il sindaco, cioè il podestà, di un paesino meridionale, aveva una moglie casalinga e romantica e abbastanza bella, che vedeva in lui un buon leone. Non avevano avuto figli, ma quasi non se ne accorgevano, perché lui era rimasto giovane di cuore. Lei, nella sua solitudine, quando il marito era in città per affari, trovava soddisfazione nei sogni. Il capitano di amministrazione si chiamava Sclafano e come mestiere civile faceva il commercialista, dove era scaltro. Egli era pratico e padrone della vita spicciola, sapeva che tutti gli uomini sono corrompibili, che nessuno fa per onore o per dovere. Aveva i capelli quasi bianchi, ben pettinati, un faccione da fanciullo. Fu lui che trovò la sussistenza, che parlò con il tenente delle provviste, si fece rispettare per la competenza, creò buoni rapporti per il futuro. I soldati della 31esima cominciarono a mangiare. Ma intanto, in quel primo giorno di oasi, mentre il capitano di amministrazione combinava qualcosa e il maggiore camminava tra le tende, senza rimproverare nessuno, il capitano medico effettivo Oscar Pilli si muoveva come un dannato, suscitando polvere tra i colli di sanità, facendo perdere la testa ai soldati. I colli di sanità erano 240, egli li fece volteggiare nei campi di sabbia dell'accampamento. Ogni volta che il maggiore passava vicino a Pilli, questo, in mezzo alla tempesta suscitata, si metteva col suo grosso testone sull'attenti, ridendo con gli occhi celesti e la bocca dentuta e mormorando «Sì, sì, sì, sì, signor maggiore!». Gli altri 2 tenenti medici, visto come stavano le cose, dopo pochi minuti che avevano cominciato a immolarsi per la costruzione dell'accampamento, fecero finta di far qualcosa, e uno, che era il tenente Marcello, come si è detto, se ne andò. Il tenente di fanteria invece si mise a urlare, minacciava i soldati, sembrava che avesse in animo di frustarli. I soldati andavano, venivano, ascoltavano, già conoscevano il mondo militare. I più buoni si fecero distinguere e cominciarono a sopportare più degli altri quella faccenda che doveva durare molti mesi. L'oasi è uno spazio del diametro di circa 2 chilometri in mezzo al deserto. Sotto la sua sabbia c'è una debole falda d'acqua. L'arabo vive in una casa con i muri fatti di pochi sassi e moltissima terra. Non vi è tetto, né in terra pavimento. Di coperto c'è un rettangolo, un budello accostato a uno dei 4 muri, dove su stuoie dorme tutta la famiglia. L'arabo bastona finché e quando vuole. Vive con pochissimo, sono magri, non escono dal Corano e dal deserto. Stanno così spesso immobili nell'immobilità dell'oasi. Questo modo di vita porta a disprezzare il dolore e l'Occidente. La legge nell'oasi non vive per la polizia, ma per la religione. La 31esima sezione di sanità capitò in un'oasi chiamata Sorman. Moltissimi arabi hanno il tracoma, che è una malattia degli occhi che porta alla cecità. Il giorno dopo che arrivammo, il maggiore, che era oculista, vedendo un bambino col tracoma, lo cominciò a curare. Il bambino migliorò. La notizia si sparse nell'oasi. Oltre il maggiore c'erano alla sezione altri medici, cominciarono a presentarsi arabi per farsi curare. Portavano in cambio prodotti dell'oasi. Per mezzo di queste visite i medici entrarono nelle case degli arabi, chiuse per tutti, anche nelle mura, che non hanno finestre. Una settimana dopo l'arrivo della sezione penetrò nell'accampamento un arabo che poi si seppe chiamarsi Mahmud Ben Mohammed. La sentinella non osò fermarlo. Era un uomo di circa 30 anni, vestiva una tunica bianca uguale ai domenicani, ma con una fascia celeste intorno alla vita, il capo avvolto da un turbante bianchissimo. Era vicina la sera, i raggi del sole erano diventati tiepidi. Sembrava di essere in una spiaggia italiana nella calma di quell'ora estiva. Gli ufficiali intorno al maggiore erano seduti su certi piccoli improvvisati sgabellini nei pressi di un ulivo selvaggio che c'era in mezzo all'accampamento. Mahmud si diresse a quel circolo. Individuò il maggiore, forse dai gradi, ma più per i capelli quasi bianchi e per la corona intorno a lui di giovani medici. Senza alcun preambolo, come se gli impetuosi moti dell'animo avessero in quell'istante allontanato ogni parola di circostanza, scoprendo l'essenziale, disse in perfetto italiano, era la prima volta che si udiva un arabo parlare la nostra lingua, che aveva un bambino malato d'occhi, se veniva a visitarlo. Il maggiore non capì che era un signore del luogo. Rispose, sebbene con la solita dolcezza, che glielo portasse alla sezione. Mahmud, in piedi, davanti a lui e agli altri, apparve come un uomo a mezzo capace di resistere all'orgoglio. Gli passò infatti per il volto come un temporale, che però si spense, forse perché la realtà del suo stato lo ricondusse al consueto consiglio. Comunque il maggiore non si alzò di dove era seduto. Gli altri ufficiali furono incerti. Mahmud non pronunciò altre parole. Fece un inchino con occhi dove ira, ironia, dispiacere si passava all'anello. Si voltò e ripercorse l'accampamento. Scomparso, gli ufficiali commentarono la sua figura, dedussero che doveva essere un patrizio e di non averlo trattato secondo la regola. Soltanto un tenente, non si sa da che fustigato, disse che gli arabi dovevano essere umiliati. Poiché il giorno dopo, come gli era stato detto, Mahmud invece non comparve, venne il pensiero che trattato male non venisse più. In specie due tenenti medici, Marcello e Pintus, se ne dispiacquero, perché avevano sperato che quell'uomo, così diverso dagli altri arabi, li avrebbe aiutati a conoscere il difficile mondo dove all'improvviso erano capitati. E poi avevano tutti e due una segreta voglia, che neppure fra loro si erano comunicata. I funzionari italiani, che in Libia comandavano gli arabi, erano ignoranti e fannulloni. Sarebbe piaciuto ai due tenenti mostrare a quell'arabo che l'Italia non era soltanto quei funzionari. Poiché Mahmud il giorno stabilito non si era presentato, parve la sua figura più segreta. Claudio Bigagli ha letto Il deserto della Libia di Mario Tobino, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, regia di Francesca Zammarelli, ad alta voce @rai.it.